Qualche tempo fa ospitammo al microfono aperto di Radio Popolare Roma il professor Massimo Villone, costituzionalista, che lanciò la campagna per la raccolta di firme per il referendum per abrogare alcuni commi, alcuni articoli della legge per la buona scuola che è stata presentata dal governo Renzi. Bene, domenica a Napoli c'è stato il primo atto concreto perché è stato costituito, c'è stata l'assemblea costitutiva del comitato promotore del referendum abrogativo appunto della legge 107/2015. L'introduzione è stata di Marina Boscaino. Buongiorno Marina. Buongiorno. Allora raccontaci un po' quello che è successo a Napoli. Ci sono stati tanti presenti, tante associazioni che hanno portato la loro adesione. Come poi dici, quali sono state le conclusioni naturalmente di questa assemblea? Dunque, le conclusioni delle quali siamo tutti veramente molto soddisfatti, perché si tratta di conclusioni che vengono da un percorso che è iniziato a luglio, quando abbiamo iniziato a pensare alla possibilità di un referendum abrogativo della legge, e poi ha avuto due tappe significative in una giornata di assemblea a Bologna in settembre e poi ancora a Roma in novembre. Le conclusioni sono state l'approvazione all'unanimità della costituzione di un comitato promotore del referendum abrogativo di parte, purtroppo non si può abrogare tutto, di tutta la legge 107, formato da tutte le forze sindacali ed associative a livello nazionale presenti nell'assemblea stessa. Quindi sto parlando ad esempio della FLC, cioè della CGL Scuola, sto parlando della Gilda, sto parlando dei COBAS, degli Unicobas, di altri sindacati, e per quanto riguarda per esempio il mondo del movimento, dei comitati per il sostegno alla legge di iniziativa popolare, la LIP Scuola, e di molti altri soggetti, tra cui l'Unione degli Studenti. Questo risultato ci rende molto molto soddisfatti e soprattutto inserisce il percorso referendario sulla scuola all'interno di un percorso condiviso con altri soggetti che parteciperanno ad una stagione referendaria più ampia, che vedrà anche l'intervento di altri quesiti referendari su temi prevalentemente ambientali e, non disperiamo, anche sui temi del lavoro, sul Jobs Act. Quindi prepariamoci tutti come cittadini ad un impegno molto gravoso, ma che potrebbe dare risultati significativi nel senso di ristabilire qualche principio democratico rispetto ai cosiddetti beni comuni. Come si procederà concretamente per avviare la raccolta delle firme? Quando si partirà? E soprattutto, allora, se si volesse in qualche modo partecipare, dare una mano nella raccolta delle firme e nella prosecuzione di questo percorso, che cosa bisogna fare? Allora, la prosecuzione prevede naturalmente la definitiva determinazione di quattro quesiti referendari, che saranno su quattro temi strategici della legge, che sono l'alternanza scuola-lavoro, i superpoteri del preside, il cosiddetto manager attraverso la chiamata diretta degli insegnanti, lo school bonus, cioè la possibilità di prevedere erogazioni liberali a vantaggio non già di un'unica scuola ma del sistema scolastico nazionale, e il comitato di valutazione che vorremmo depotenziare riportandolo alle funzioni che aveva precedentemente, quindi non alla funzione di valutazione del merito degli insegnanti, il capo al dirigente scolastico. Questi nodi che prevedono, diciamo, il comitato tecnico scientifico di costituzionalisti e poi il rimando dei testi definitivi al comitato promotore, che appunto ormai ha pieni poteri da questo punto di vista, sarà sciolto entro 10 giorni, dopodiché si partirà con la campagna referendaria, che prevederà naturalmente la dislocazione da parte di tutti i soggetti che partecipano al comitato di nuclei territoriali naturalmente, quindi ci saranno l'organizzazione dei banchetti verrà a livello prima regionale e poi a livello cittadino, per cui il contributo sarà possibile mettendovi in contatto con uno dei soggetti membri del comitato proponente. Volevo dire un'ultima cosa, cioè che è già prevista molto probabilmente per il 13 marzo un'altra grande assemblea, questa volta con tutti gli altri soggetti del, diciamo, della tornata di referendum sociali, per lanciare anche una campagna unitaria in questo senso. Bene, intanto ulteriori informazioni, ulteriori dettagli, ulteriori notizie si possono trovare sul vostro sito lipscuola.it /blog. Esatto. E qui abbiamo anche la registrazione video, audio naturalmente dei vari interventi, quindi si potrà sapere anche in dettaglio quelle che sono le, sì. Gli interventi. Le delibere, e soprattutto vi consiglio il magnifico intervento di Massimo Villone, che come al solito ci ha aperto, come dire, parlando di libertà, ci ha aperto delle prospettive sicuramente nuove e anche molto commoventi, insomma, molto toccanti dal punto di vista della cittadinanza e dei nostri singoli destini, quindi vi consiglio di guardarlo. Uno dei professoroni gufi di cui parla il Presidente del Consiglio, di cui ha parlato il Presidente del Consiglio, sia per quanto riguarda l'Italicum, per quanto riguarda le riforme istituzionali e poi per quanto riguarda la scuola. Sappiamo degli impegni di Marina Boscaino, la lasciamo ringraziandola per essere stata con noi e soprattutto riservandoci poi di poterci ancora sentire per avere dettagli ulteriori sulla partenza. Senz'altro, grazie a voi per l'informazione e per tutto quello che potrete fare, perché ripeto, ci aspetta un impegno molto molto difficile, ma sicuramente con delle buone prospettive, se siamo tutti insieme, se collaboriamo. Grazie a tutti. Un impegno che ci assumiamo. Grazie Marina Boscaino, buon lavoro. Buona giornata a tutti, arrivederci. Marina Boscaino della legge di iniziativa popolare, comitato promotore del referendum abrogativo della legge 107 2015.